Sessioni Musica. Martedì 24 dicembre, ore 19, centro antico della NA 013. Le luminarie di Natale rendono ancora più spettrali i decumani, strade che tagliano il centro città in orizzontale da parte a parte, che sono quasi deserte a quell'ora. In lontananza si sentono le voci provenire dalle case, i rumori di piatti, stoviglie e sedie. Gli zombie stanno allestendo allegramente le tavole per celebrare l'annuale rito consumistico. Per loro riuscire a mettere sulla tavola i cenoni del 24 e del 31 dicembre è una soddisfazione enorme e poco importa se nei restanti giorni dell'anno riesco a mettere sì e no un piatto a tavola. Qualche zombie è ancora per strada per cercare qualcosa da mangiare a poco prezzo, approfittando che la maggior parte dei commercianti ha già portato a termine il suo gioco speculativo delle feste con il raddoppio dei prezzi. In quei giorni sono tutti felici, gli zombie perché si fanno sfilare i soldi, quei pochi soldi dalle tasche tra le galle e i cenoni, la chiesa perché raccoglie a sé tutte le pecorelle smarrite per tutto il resto dell'anno, i commercianti perché lucrano sui prezzi, in particolare su quelli degli alimenti, i governanti che possono trascorrere 15 giorni rilassati perché con l'arrivo delle feste gli zombie dimenticano qualsiasi problema. Gli scioperi rientrano, gli studenti sgomberano le occupazioni di scuole e università, gli ideologhi e i ciarlatani della rivoluzione festeggiano insieme a quello che per tutto l'anno chiamano l'oppio del popolo. Il tutto contornato dalla morale violenta dei media Tarskop che invitano tutti ad essere più buoni perché è Natale. Una leggera foschia riempie i decumani e i vicoletti che si diramano da essi. Ma non è tutta foschia quella che si vede, perché in alcuni punti c'è qualche bidone della spazzatura che è stato dato alle fiamme e l'odore della polvere dei petardi che di tanto in tanto esplodono. Tra la coltre di fumo e di foschia riecheggiano i passi veloci di un uomo. Questi ha il viso avvolto nella sciarpa e un cappello che gli casca all'altezza delle sopracciglia. Un lungo cappotto nero, guanti neri in pelle e in mano ha uno di quei sacchetti di plastica grandi con dentro una scatola avvolta nella carta da regalo. L'uomo cammina a passo spedito e con la testa piegata in avanti e gli occhi che guardano quasi dritto, evitando il centro della strada, cammina radente ai palazzi. Arrivato all'incrocio con via Duomo, svolto sulla destra percorrendola in discesa. Dopo quasi un centinaio di metri, l'uomo sparisce improvvisamente, per poi ricomparire qualche minuto più tardi, mentre ripercorre a passo ancora più spedito la strada al contrario. Avrà sbagliato strada ed ora il passo si fa ancora più veloce, forse perché è in ritardo. Mentre sta per svoltare in un vicolare adiacente, sfila con una mano le sigarette da una tasca del cappotto e con l'altro l'accendino che ha nell'altra tasca. Accende la sigaretta parando con l'altra mano la fiamma dell'accendino dal vento. L'azione dell'accendere la sigaretta da parte di quell'uomo mi porta in mente la scena vista appena 15 minuti prima. L'uomo che passeggia per i documani a passo spedito. Quel gesto tiene occupate le due mani dell'uomo, a cui manca qualcosa. L'uomo sparisce definitivamente tra la foschia e il fumo di petardi e cassonetti che bruciano, e si sentono solo i suoi passi che non sono più spediti, ma corrono. All'improvviso una luce giallo-rossastra, seguita quasi immediatamente da uno scoppio fortissimo. I vetri di qualche palazzo si frantumano, gli allarmi delle auto iniziano a suonare in contemporanea lungo tutta la strada, ed un fumo molto denso inizia a sbucare dalla piazzola davanti al Duomo. Proprio in quella piazzola dove poco prima era sparito l'uomo e poi ricomparso senza il sacchetto in mano. Il fumo inizia a colorarsi di blu, di luci blu delle auto dei Tarskop che arrivano in meno di 10 minuti sul luogo della deflagrazione. Altri risalgono dai tombini delle fogne in assetto di guerra, ma tutti si tengono a distanza dal punto preciso dove è avvenuto lo scoppio. Stanno aspettando la loro squadra di artificieri che non tarda ad arrivare. Artificieri, dopo un controllo della piazzola, salgono con cautela pochi scalini che dalla piazzola stessa portano all'ingresso del Duomo, che era già stata allestita per la messa di mezzanotte. Il portone è divelto e la nube nera proviene proprio dall'interno della chiesa. Si sentono le voci dei preti che chiedono aiuto, ma il fumo nero e le luci gialle della chiesa non rendono facile la vista dei Tarskop, che sono arrivati già a due terzi del corridoio centrale e sono diretti verso l'altare. All'improvviso un tonfo. Un Tarskop è praticamente inciampato nel cesto di paglia in cui vi è adagiata la statua di Gesù Bambino. Accende la torcia per vedere dove mettere i piedi ed evitare di non arrecare danni alla statua. Quando il fascio di luce si posiziona sul tronco del corpo della statua, il Tarskop nota stupito un foglio tra le mani della statua su cui è scritto «Buon Natale Nero». E sotto c'è la firma «Refractarius». E loro erano Second Voice con il brano First Injection. Ora diamo, dopo la lettura di Nazario 13, che è oramai diventato un rituale di ogni lunedì, viene scritto lunedì mattina, stamattina è stato scritto alle 6, normalmente viene scritto alle 9, arriva solo il lunedì l'illuminazione per scrivere quattro stronzate. Allora, dicevo, oggi lunedì, quindi a diretta d'azione con Controinformazione, ma soprattutto la lettura di Veracruz di Valerio Evangelisti, e ovviamente la musica Ricordiamo gli indirizzi utili per la redazione: redazione@bistici.org, per chiunque vuole mandare mail complicati, scritti, giornali, manifesti, iniziative, critiche, complimenti, fate voi. redazione@bistici.org, invece per il blog, dove c'è la informazione aggiornata quasi quotidianamente, dove potete andarvi a vedere qualche video, scaricare qualche opuscolo, scaricare qualche manifesto, scaricare qualche CD, scaricare, potete scaricare pure Radiazione, lo buttate nel cesso, va bene pure questo. radiazione.onblogs.org, ricordo il triplo CD che si può scaricare già da qualche giorno di Sebastian, i Palabras in conflitto, per chi lo vuole, basta cliccare sull'immagine e vi si apre la pagina del download. È un solo file zippato, dentro ci sono 3 LP, 3 CD. Per la radio, radiazione.listentumaradio.com, o altrimenti attraverso il banner sulla home page di Radiazione, ci cliccate sopra il lunedì e venerdì dalle 17 alle 19 e ascoltate la diretta d'azione. Altrimenti, attraverso la categoria Ascolta le dirette d'azione, potete riascoltarvi i podcast. Ora vi lascio con un brano di The Adult, Nothing of Kind, e poi dopo si torna qui e si inizia subito la lettura di Vera Cruz di Valerio Evangelisti. clamorosamente per il secondo lunedì di fila qui. Non piove, e allora significa che si addenseranno le nubi tra domani e dopodomani e vivremo, attraverseremo e ne usciremo indenni da questo Natale nero, perché anche nel Natale nero c'è un pericolo in vista. Macari fu risvegliato dai rumori dell'intero accampamento che, in massa, si precipitava verso la riva. Si sentiva ancora esausto, ma tuttavia felice, dopo un amplesso che avrebbe ricordato per tutta la vita. Pur senza amare per davvero Gabriela, avvertiva l'urgenza di riaverla tra le braccia al più presto. Adesso però non poteva. Strinse la cintura, allacciò la camicia e raccolse la sciabola. Corse anche lui alla spiaggia e si imbatté in Lever, che lo guardò con occhio critico. «Non sei rientrato stanotte, per caso?» «Sì!» Macari era fiero di sé. La parte di memoria relativa al suo colloquio con De Grammont l'aveva svuotato. «Che cosa sta accadendo adesso?» «Beato te!» Levert indicò il tratto di mare tra la Isla de Sacrificios e Veracruz, rosseggiante di coralli. «Vedi la scialuppa con un uomo ai remi? È Bamba! È stato a raccogliere in città il resto del riscatto per gli ostaggi. Il fatto stesso che sia vivo fa pensare che abbia avuto successo.» Macari indicò un veliero assai prossimo. «Quello è Saint Joseph, il brigantino di Grognier. Sta calando l'ancora. Che ci siano delle novità?» «Lo sapremo tra poco.» Bamba toccò terra e gli avventurieri si impadronirono della prua della barca, tirandola a secco. Lo schiavo mise piede sulla spiaggia con un sacchetto in mano. La visione dell'involto suscitò, come prevedibile, un'onda di entusiasmo. Fu calmata dall'apparizione di Van Horn e di Lorenzillo. «Hanno pagato tutto il dovuto?» chiese il primo. «No, solo la metà!» Le grida di gioia si spensero subito. «Come sarebbe a dire la metà?» urlò Lorenzillo. «Per la coda di Lucifero, ci prendono in giro questi spagnoli!» «Padrone», spiegò Bamba, umiliato come se la colpa fosse sua. «Sulle prima non volevano pagare proprio nulla, pensavano anzi di impiccarmi e qualcuno era già corso a cercare una corda. Per fortuna è intervenuto il castellano di San Juan de Ulua, Don Fernando de Solis y Mendoza. È sbarcato e attualmente è l'unica autorità rimasta a Veracruz. Ha ricordato ai cittadini che il governatore è nelle vostre mani.» Gli persuasi a raggranellare i pezzi da otto, solo che non ne restavano molti ai ricchi della città, intendo quelli vivi, perché quelli morti, a quanto ho sentito, sono oltre 400. «Troppo pochi!» gridò qualcuno. «Dovevamo accopparli tutti e bruciare non solo le stamberghe, ma anche i palazzi!» «Ebbè, siamo ancora in tempo!» si replicò dalla calca. «Torniamo a Veracruz e facciamola finita con quelle canaglie!» Bamba indicò alle sue spalle il Saint Joseph, da cui si erano staccate un paio di lance prossime a raggiungere terra. «No! Di tempo non ce n'è, tra poco ve ne diranno il motivo. Intanto questo sacchetto...» «Dallo a me!» disse Van Horn e glielo strappò dalle mani. Pochi minuti dopo il capitano François Grognier scendeva dalla sua imbarcazione. Un uomo alto, massiccio, dalla capigliatura selvaggia, era molto emozionato. «Dov'è l'ammiraglio?» chiese con concitazione. «Riposa, credo», rispose Lorenzillo. «E allora qualcuno vada a svegliarlo. L'intera armada de Barlovento è in vista. Una ventina di galeone, direi. Non sono stato a contarle. I cannoni innumerevoli, i soldati a centinaia. Dobbiamo andarcene da qui, è in fretta!» Lorenzillo gridò. «Dov'è le Texar?» «Ah, eccovi! Andate ad avvertire il cavaliere, bisogna salpare!» L'ufficiale obbedì. «Un momento!» disse Van Horn. «Laurent, non vorrei lasciare qui gli ostaggi chiusi nel forno. Da riva ci hanno mandato solo metà del denaro. Quanti sono i prigionieri? 16? Propongo di decapitarne la metà e di lasciare qui le teste. Gli altri li portiamo con noi. Da un diverso approdo torneremo a chiedere a Veracruz la parte di riscatto che ci manca.» Lorenzillo portò l'indice alla tempia. «Tu sei pazzo, Nicolas! Abbiamo le ore contate! Sono galeoni! Navigano lenti! Le ricchezze che abbiamo imbarcato superano ogni altra preda dei fratelli della costa da 50 anni a questa parte. Saremo lenti anche noi. Che ce ne facciamo di 4 soldi in più e di 8 teste di meno?» «Se posso guadagnare altro denaro, non ci rinuncio», rispose Van Horn. «Gli spagnoli si convincono solo di fronte ad una sfilza di decapitati. Chi ha una scure? È tempo di affilarlo. Bravo, bravo Big Willy, vedo già che ci stai pensando.» Lorenzillo perse la pazienza. Nicholas, sei un vero imbecille, dannato sia il demonio. Uomini, lasciate perdere questo cretino, non conta nulla, di mare non sa un accidente, armate le scialuppe, portate a bordo le cose utili, all'ordine dell'ammiraglio prenderemo il largo. Imbecille sarai tu, sporco mulatto, sbraitò Fanorn. Ti ho odiato fin da quando ti ho conosciuto. Laurent, tira fuori la spada se riesci a reggerla, voglio vedere spillare il sangue del tuo cadavere. Agli ordini, Nicholas, rispose Lorenzillo e sguainò la sciabola. Tra un attimo piscerò sulle tue budella. Fanorn trasse dal fodero una spada più lunga di quella del rivale, dritta e affilata dall'elsa d'oro, la puntò. Bada che io miro al cuore. Ma prima che le due lame potessero toccarsi, la voce dura di De Grammont spense ogni litigio. Mi sembra di avere a che fare con dei bambini. Mettete via le armi, vi batterete al prossimo scalo. Adesso tornate alle vostre navi, caricate i cannoni e preparatevi ad abbordare. Il nemico è di gran lunga più forte. È in queste occasioni che la filibusta dimostra la propria tempra, non in inutili duelli individuali. Ben detto, ammiraglio! Esclamò Lorenzillo. Ripose la sciabola nel fodero. I miei uomini a raccolta, ci si imbarca! Fanorn fu molto più lento ad abbassare l'arma, scontroso domandò: che fare degli ostaggi, cavaliere? La mia proposta è... L'ho udita, la vostra proposta è respinta. I prigionieri li lasceremo nel loro forno, governatore incluso. Siamo ricchi abbastanza per non doverci abbandonare a crudeltà inutili. Il tempo è scarso, tra breve saremo sulla difensiva. Tornate alla vostra nave e salpate in fretta. Magari simpatizzò per De Grammont, vero uomo di guerra. Non stette a contemplare la smorfia con cui Fanorn accolse l'ordine. Fu tra quelli che corsero alla bicocca che ospitava Claire per trasportarla fino al mare. Aveva sperato in cuor suo di scambiare qualche parola o almeno un sorriso con Gabriela. Lei però lo ignorò e forse faceva bene. Pareva occuparsi solo della malata. Un'ora dopo Macarie era a bordo delle Ardi rollante più del solito mentre si levava l'ancora. Aiutò a trasportare Claire de Grammont nel quadrato ufficiali. Re Texar gli aveva ceduto la stanza e si era assegnato a dormire altrove, forse nel corridoio della ciurma. Il suo lettino, di fianco alla barella, fu destinato a Gabriela. La dama, sempre evitando di guardare l'amante di una notte, rincalzò le coperte dell'inferma. C'era da dispiegare le vele e magari corse sul ponte. Una folata di vento quasi lo soffocò, ma lo rese felice. Era a casa, per quanto fosse strano ammetterlo. Il guscio delle Ardi, puzzolente di catrame e di altri afruri nauseabondi, brulicante di scarafaggi, gli era ormai più familiare che un riparo a terra. Quasi ebbro, di salsedine, ammirò l'eleganza con cui la Francesa, il Conqueror e il San Joseph e una quindicina di vascelli aggiravano i banchi corallini e puntavano al mare aperto. Si concentrò sul proprio dovere. Visto che Re Texar non appariva e De Grammont era entrato nei suoi appartamenti, prese a strillare: sciogliere le vele, braccare i pennoni, issare le gabbie, alle mura dei trepi, ora alle scolte, lascate terzaroli. Ilerdi lasciò la isla dei sacrifici di bolina stretta per stringere il vento il più possibile. Benché fosse un semplice brigantino, aveva un che di maestoso per come si inclinava e superava l'uno ad uno gli altri velieri pronti a cedergli il passo. Tutto strideva, gemeva, scricchiolava. Le manovre crepitavano. La ciurma, che pure nutriva per l'oceano l'odio di tutti i filibustieri, pareva felice di rimettersi in movimento alla ricerca di nuove avventure. Finalmente Texar uscì dal boccaporto di poppa e raggiunse la chiesola della bussola di fianco alla barra del timone. Un'occhiata allo strumento gli confermò che la rotta era quella giusta. Fece a Macarie un cenno di assenso. Molto bene, partenza perfetta, l'andatura è ottima. Chissà, potremo anche riuscire a sfuggire agli inseguitori. La smentita di un auspicio così ottimistico giunse un attimo dopo dalla coffa di maestra. Navi in vista a prora! Urlò il gabbiere. Sono morte tutti i galeoni! È l'armata dei Parlovento! Non c'è dubbio! Come se avesse previsto l'annuncio, il cavalier de Grammont apparve sulla soglia del quadrato in assetto da battaglia. Oltre alla sciabola aveva una daga infilata nel cinturone e portava a tracolla tre pistole. La misericordia, nel suo fodero lungo e smilzo, gli batteva sull'anca sinistra. Vestiva non di grigio ma solo di nero, dal mantello alle brache alla casacca. Il largo cappello calcato di sghimbescio era sormontato da tre lunghe piume tinte di rosso. Non zoppicava affatto e si portò vicino a Retexar con passo sicuro, malgrado il rollio. Makari, che si trovava vicino, poté udire ciò che i due si dissero. «Ci siamo?» si limitò a chiedere De Grandmont. «Sì, ammiraglio, possiamo ancora evitare il confronto con gli spagnoli. Noi abbiamo il vento a favore, loro contro. Un pizzico di fortuna e sfiliamo tutti sotto il naso del nemico.» «Niente affatto. Questo rollio eccessivo sta infastidendo mia sorella, alla nausea. Sono proprio salito per chiedere di ridurre la velatura.» «Ma, ammiraglio!» obiettò Retexar sbalordito. «Così facendo finiremo in bocca all'armata.» «È con questo!» «Vi spaventa combattere. Date ordine di terza rolare. Subito!» «Naturalmente vale per tutta la flotta.» «Come volete, ammiraglio?» borbottò Retexar riluttante. E prima ancora che l'ufficiale lanciasse il comando, Makari si aggrappò ad una sartia e, calcando rapido le griselle, prese a salire a riva. A mezza altezza si arrestò a guardare Veracruz, ormai distante, che forse non avrebbe mai più rivisto. La sfarzosa capitale della Nuova Spagna giaceva come un cadavere smembrato sulla costa, priva dei quartieri popolari, distrutti, inceneriti, e con i forti che avrebbero dovuto difenderla, ridotti a tizzoni. Sulle cupole e sui campanili si stavano radunando al solito nubi scure pronte a celare il sole, mentre il cielo attorno rimaneva limpido. Simbolo eloquente della lebbra che, proveniente dagli acquitrini, continuava a divorare quella che da due secoli tentava inutilmente di diventare una metropoli. 400 morti, pensò Makari. Non avrebbe mai creduto che potessero essere tanti. Un intero ceto dirigente, e chissà quante donne sopravvissute portavano nel ventre il figlio di un filibustiere. Tra 9 mesi erano prevedibili drammi familiari d'ogni sorta. Invece la fortezza di corallo di San Juan de Ulua manteneva un'apparenza solida e feroce. Makari però sapeva che era rosa all'interno dalla carie e inutile alle funzioni per le quali era stata edificata. L'ultimo sguardo lo lanciò alla Isla de Sacrificios, dove probabilmente gli ostaggi stavano uscendo con esitazione dal forno per la calce, increduli di essere stati abbandonati così repentinamente. Ignoravano che almeno la metà di loro aveva ancora la testa sul collo perché Lorenzillo si era opposto ai piani omicidi di Van Horn. Makari riprese a salire, ora accompagnato da torme di avventurieri lesti ed agilissimi. Si andava a terza rolare, il compito più pericoloso ed eccitante riservato agli uomini migliori di un equipaggio. Ci si sentiva veramente superiori tra il vento e la morte. E loro erano Hunterheart con il brano Headshot. Ora, dopo la prima lettura del primo paragrafo di Veracruz di Valerio Evangelisti, si ritorna alla controinformazione, si va negli Stati Uniti, cosa anomala normalmente, però si va negli Stati Uniti perché ci sono state danneggiate tre auto della polizia davanti all'Olympia Justice Center. Allora, leggiamo direttamente il testo di rivendicazione dell'attacco. Nella notte del 16 dicembre sono stati distrutti i vetri di tre macchine della polizia parcheggiate davanti all'Olympia Creighton Justice Center, sede del carcere e tribunale municipale di Olympia. È stato scelto proprio questa data perché coincide con l'appello internazionale alla solidarietà con i cinque di Barcellona, accusati di attacco esplosivo contro la cattedrale cattolica di Saragozza in Spagna. I due che si trovano in custodia cautelare, Monica Caballero e Francisco Solar, sono stati recentemente anche accusati per il caso Bombas in Cile dal 2010 al 2012. Entrambe hanno affrontato il processo e 9 mesi di detenzione con dignità. Hanno ispirato la comunità anarchica internazionale e adesso noi vogliamo con questo atto di ribellione esprimere il nostro sostegno a loro e il nostro odio verso le forze repressive. Solidarietà significa attacco. La polizia di Olympia è l'espressione dello stesso apparato repressivo che cerca di controllare i nostri compagni oltreoceano. Questo controllo e la repressione sono massicciamente presenti anche negli Stati Uniti. Ad esempio, il 19 novembre a Durham, nella Carolina del Nord, la polizia ha brutalmente assassinato il 17enne Chai Huerta sul sedile posteriore della loro auto. Con la nostra azione inviamo anche un caloroso messaggio di solidarietà a tutti quelli che soffrono per la mancanza di una persona cara che si trova nelle mani della polizia, particolarmente a quelli di Durham, New York City. L'unica cosa che stanotte si troverà sul sedile posteriore di queste macchine sarà l'ego frantumato del Dipartimento di Polizia di Olympia, a cui noi mandiamo un grande fuck you. E questo era il testo senza firma rivendicativa che arriva dagli Stati Uniti in solidarietà con Francisco e Monica e non solo, che, come dicono i compagni, rientra nella settimana internazionale di solidarietà chiamata dai compagni catalani, proprio a sostegno di Francisco, Monica e gli altri 3 compagni che erano stati arrestati insieme a loro per quanto riguarda gli attacchi, all'attacco in particolare uno alla chiesa, quella di Saragozza, però gli vogliono anche imputare anche quella della la chiesa del Pilar a Madrid, insomma gli vogliono imputare un bel po' di cose con tutto il sostegno da parte del governo cileno, che non vedeva l'ora di avere una rivincita nei confronti dei compagni che un anno fa appunto erano stati scagionati dal caso Bombas, in cui era uscito che era tutta una montatura. Allora, questa era per quanto riguarda la controinformazione di oggi. Ricordiamo anche che il 20 dicembre, quindi 3 giorni fa, è uscito l'ultimo compagno in carcere detenuto per l'operazione Ardile, Sergio Maria Stefani. Se Sergio ascolta, gli mandiamo un grande abbraccio, lui sa chi sono, e quindi un abbraccio forte a Sergione. Ora ci ascoltiamo un brano di Run Level Zero con il brano Somnium Ex Machina, e dopo si torna qui e si torna con la lettura di Veracruz di Valerio Evangelisti. fare paura. Mentre in alto Macaria e i gabbieri ripiegavano sulle vele e se ne assicuravano le pieghe con i gerli, in basso ci si preparava alla battaglia. Dal corridoio sotto coperta proveniva il rimbombo cupo dei cannoni, fatti rotolare sui loro affusti e fissati alle feritoie, nonché l'eco del rollio dei barili di polvere e delle palle d'acciaio. Sulla tolda, spade, sciabole, daghe, picche, lance, scuri, pistole e moschetti erano affastellati e ogni filibustiere andava a raccogliere lo strumento di morte che più gli conveniva. C'era chi confezionava granate, chi riempiva di esplosivo le cartucce e chi accumulava in mucchietti i piedi di cervo a quattro punte da usare in caso d'abbordaggio. La stessa frenesia regnava sulle altre navi. Sulla francesa, il veliero più prossimo alle Ardisi, caricavano i cannoncini girevoli, i patareros, e i bucanieri avevano già preso posto con i loro fucili smisurati, retti da una forcella, a poppa e a prua. Sul Conqueror, un buon numero di balestrieri inglesi, i migliori sulla piazza, si stava disponendo lungo l'impavesata. Sulle Tigre di Lesage spiccavano accanto ai 30 uomini d'equipaggio una decina di indigeni seminudi che provavano l'elasticità dei loro archi. Dalla posizione elevata in cui si trovava, Macari cominciava però a scorgere con nitidezza il nemico, l'armada de Barlovento. L'impressione era di potenza e di invincibilità. Più di 20 galeoni smisurate, a vele spiegate, navigavano verso la flotta dei Fratelli della Costa, lenti ma inesorabili. Avevano castelli altissimi, ornamenti rosso e oro, due o tre fili di cannoni ciascuno. Le tolde erano tutt'uno scintillio di corazze e presumibilmente di spade. Persino il poderoso Leardi a loro confronto appariva un fuscello galleggiante. Macari scese sul ponte in tempo per udire De Gramont ordinare Texari. Primo ufficiale, barra al vento, si punta dritti sugli spagnoli ma senza forzare l'andatura. Agli ordini, ammiraglio. De Gramont camminò fino all'impavesata di babordo e si aggrappò al sartiame. Il francese era vicinissimo e navigava di conserva. Capitano De Graff, gridò, mi udite? Lorenzillo, che teneva di persona la barra del timone, te la passò al timoniere e corse al bastinaggio. Sì, ammiraglio, vi sento benissimo. State navigando in silenzio. Dove sono tamburi e flauti? Avete licenziato gli orchestrali? Oh no, ammiraglio, temevo di disturbarvi voi e vostra sorella. Chiamateli in coperta, clero, ho fatto mettere della cera nelle orecchie. Voglio una sarabanda infernale. Con la sola forza delle armi la sconfitta è certa. Non riusciremo nemmeno ad abbordare. Abbiamo una sola carta da giocare, capitano. La paura. Lorenzillo sorrise. Ho capito, ammiraglio, sarete obbedito. Reggendosi alle manovre, De Gramont tornò al centro del ponte, fino alla chiusura della bussola. Claudicava nuovamente, si aggrappò alla garitta e disse a Retexar: in alto la bandiera, su tutti i nostri legni! I gighi di Francia? No, la Jolie Rouge, che sappiano il loro destino, la morte! Retexar lanciò il comando che passò di nave in nave. Poco dopo, sugli alberi di maestro di trinchetto della flotta sventolò la bandiera nera, a volte rossa come alle origini, dei Fratelli della Costa, con il teschio e la clessidra. Simultaneamente sulla francesa, tamburini e flautisti presero a suonare una marcia lenta, quasi funebre, che aumentava di ritmo. Altri velieri della filibusta avevano a bordo dei musicisti. Furono chiamati in coperta con i loro strumenti, principalmente a percussione. Si unirono ai suoni emessi dal brigantino di Lorenzillo, come avevano fatto nella selva attorno a Veracruz. I tamburini emettevano anche urla stentoree, ricorrenti, simili allo yo dei marinai inglesi, ma più secche. Violini e flauti si adeguarono alla cadenza, tanto più veloce quanto più la linea dei galeoni era vicina. Macari, come tutti i membri dell'equipaggio, avvertì l'eccitazione del combattimento imminente e gridò a piena voce, a mo' di comando: «La Rengen! La Rengen! Sì, la Rengen!» risposero in molti. Chi era libero da mansioni prese a battere la lama della sciabola sull'impavesata o la lancia sul ponte. La Rengen, la cantilena o filastrocca, era da sempre uno dei segnali con cui gli avventurieri annunciavano la loro determinazione omicida. Quel fragore si unì a quello dei tamburi e degli altri strumenti in un crescendo travolgente e spaventoso per chi lo udiva da lontano. Soddisfatto del risultato di Grammont, disse a Re Texar: adesso qualche cannonata per completare lo spettacolo. Ma siamo troppo distanti per colpire, e infatti ho parlato di spettacolo, vediamo di chiudere questa messa in scena. Pochi istanti dopo, lo scafo delle Ardì vibrava per l'esplosione delle sue bocche di fuoco, dirette tutte sul tratto di mare che lo separava dai galeoni. Gli altri capitani intuirono la mossa e scatenarono gli artiglieri. Una pioggia di palle cadde tra le onde, sollevando colonne d'acqua. Si levò una massa di fumo bianco, subito dispersa dal vento. Dalla parte avversa non vi furono reazioni. Cominciò però una manovra poco comprensibile. I 20 galeoni orientarono le vele e si divisero, 10 da una parte, 10 dall'altra. Nella schiera compatta e minacciosa prese ad aprirsi un varco. De Grammont e Re Texar adesso bisbigliavano tra loro. Ma Carino non poteva udirli, ma vide che Levette stava battendo la sciabola contro l'albero maestro al ritmo della Rengen e lo raggiunse. Sembra che ci stiano aprendo un passaggio, disse all'amico. Senz'altro una trappola, appena saremo in mezzo ci schiacceranno dai due lati, a quel punto saremo perduti. Levette smise di percuotere l'arma, era sudato, la sua sciabola era pesante, il caldo si faceva ormai avvertire via via che il sole saliva nel cielo. Rivoli di sudore gli scendevano da sotto il tricorno che gli rigavano la fronte. Parlò ad alta voce per vincere il frastuono. Lo pensavo anch'io, Bert, però vedo che l'ammiraglio ne sa più di me. Non dà ordine di cambiare rotta, che ci voglia trascinare tutti quanti al sacrificio, e sputò verso il barile dell'acqua. Quel diavolo zoppo ne sarebbe capace, sogna magari una fine gloriosa e la impone a tutti noi diavoletti di rango minore. Magari corrugò la fronte. Può essere, ma non è nello stile del cavaliere agire così. Del resto, guarda, gli spagnoli non si dividono in due squadre ordinate, stanno proprio sbandando. Era vero, e chiunque lo avesse notato vedeva che i galeoni vicinissimi si disperdevano a casaccio. La velatura orientata alla fuga, nemmeno una volta avevano replicato alle cannonate, sia pur simboliche, degli avventurieri, cessate ormai da qualche minuto. Spiegavano invece ogni vela disponibile come per ritirarsi in fretta. Non posso credere che stiano scappando, fu il commento di Levert. Chi mai lo farebbe? Potrebbero annientarci in meno di un'ora, ripete, una trappola. Eh no, pare di no, rispose magari distratto. O è un calcolo complicato, o si sono cagati nelle braghe, gli abbiamo messo fifa. A confortare quell'ipotesi giunsero da poppa gli ordini stentori di Re Texar. Perché la Regen è tanto fiacca? Dateci sotto, mortier! Urlate fino a farvi scoppiare i polmoni, ne va della vostra vita! Gli avventurieri non se lo fecero ripetere. I galeoni erano adesso così vicini che si potevano scorgere sul ponte uno per uno i guerriglieri di Spagna. Erano tutt'altro che bellicosi, sebbene avessero armamenti di ogni tipo e corazze in teoria impenetrabili. Molti stavano curvi dietro il bastinaggio, rafforzato da sacchi di sabbia e da scudi metallici. Sembravano aspettarsi di peggio. Non c'era dubbio. Gli spagnoli stavano fuggendo senza minimamente accennare a combattere. Dai galeoni non partì una sola cannonata. Pareva la ripetizione della tragicomica ritirata della selva acquitrinosa di Veracruz. Gli scafi trionfanti dei fratelli della costa scivolarono orgogliosi in mezzo alle poppe elaborate dei galeoni. Gli avventurieri facevano boccaccia ai nemici, si scoprivano il sedere, mostravano pezzi di carne sanguinolenta infissa sulle picche. Tutte e 17 le navi della filibusta filarono tranquille e rapide da chi aveva cercato di assediarle. I velieri nemici si rimpicciolirono in fretta, dispersi chissà dove. Sulle Ardi si udì distintamente il commento sprezzante di De Grammont, che per una volta parlò ad alta voce. De lasci, dei vigliacchi! La Spagna in questi mari è ormai troppo ricca e troppo grassa per combattere sul serio. I Caraibi sono nostri, il monopolio è spezzato. Dalle ciurme si levarono grida di urrà. Le orchestre abbandonarono i ritmi funebri e gli strumenti a fiato che sovrastavano quelle a percussioni ne suonarono di gioiosi. La festa si propagò da un'imbarcazione all'altra. Tutti si abbracciavano e Macari strinse le vesti, si sentiva sollevato, un sentimento che era generale. Un giovane marinaio, God of Fam, noto per la sua voce cristallina e per le sue fattezze effeminate, che ne facevano una preda ricercata nelle notti di bisboccia, fu spinto a forza in alto su una sartia e costretto a intonare un canto di caccia popolare tra gli avventurieri in lingua francese. I versi furono ripresi dalla ciurma delle Ardì e da molti altri equipaggi. L'esplosione di esultanza fu interrotta dai comandi secchi di Texar. Basta con questo chiasso, gli ufficiali a poppi, Nostromo! Gli uomini a spiegare le vele, orza alla banda, si festeggerà più tardi, a Cazzacolos, dove si dividerà il bottino. L'annuncio fu accolto da nuove esclamazioni entusiastiche, ognuno corse ai propri compiti, il brigantino virò col vento in prua, direzione est-sud-est, il sole brillava alto, il cielo era sereno, l'ottimismo era alle stelle. Erano The Invincible Spirit con il brano Contact, dopo il secondo capitolo di Veracruz per oggi, perché siamo già almeno alla quinta lettura e a metà del libro. Invece ora continuiamo con la controinformazione, si va in Cile, o è in Cile dove ci sono dei compagni che hanno scritto un testo sia per quanto riguarda la morte di Sebastian che per altro. Il testo si chiama Parole in conflitto contro il paese. Un saluto iconoclasta in memoria del compagno Sebastian Overslucci. Poi c'è una citazione: oggi mi vendo di nullo, scarico tutti i miei proiettili per continuare a vivere. Da Ovalo, dei Palabras in conflitto, la band in cui cantava il compagno Sebastian, detto Angry. La mattina di mercoledì 11 dicembre 2013, circa alle 9.30 in Paduel, il compagno anarchico Sebastian entra nel banco estato in avvenita e la Estrella 1021 insieme ad altri per portare a termine una rapina. All'ingresso dell'agenzia Sebastian tira fuori una mitragliatrice gridando ad alta voce che è una rapina. La guardia privata lo osserva e poi spara 11 colpi, di cui 5 toccano la vita bellissima del compagno. L'arma letale che ha scaricato i proiettili mortali è impugnata al miserabile Wilson William. La stampa tiene nascosto e ha cambiato il suo nome, lo chiama Wilson William Vera R, che ha eseguito l'attività di mercenario nella guerra in Iraq, operando come guardia privata, oltre ad essere una parte delle forze di occupazione in Haiti. A tutto questo bisogna aggiungere il suo ruolo di capo in seconda nell'esercito e l'addestramento fatto negli Stati Uniti per la protezione di persone importanti. William Wilson Vera, o come si chiama lui, di 28 anni, lavorava regolarmente nell'agenzia principale del Banco Estado in Almeida, ma quel giorno era in sostituzione nell'agenzia a Pudahuel. Ferito e mentre cadeva a terra, Sebastian arriva a sparare una raffica di proiettili contro i vetri e il soffitto, essendo stramazzato a suolo per colpa del miserabile recapieti. La stampa non ha tardato ad arrivare sul luogo e coprire la notizia, alzando la guardia e la sua azione assassina sul piedistallo dell'eroe. E chi ha ucciso l'eroe del potere? Un compagno anarchico insurrezionale, Sebastian Overslugge, detto Angry. Egli era conosciuto principalmente negli ambienti legati alla liberazione animale e l'hip hop anti-autoritario, e presente in innumerevoli momenti di lotta. Palabras in conflitto era il nome che usava per esprimere i suoi pensieri e azioni attraverso la musica, contrassegnati con parole anarchiche. La sua vita e la sua bella presenza ci è stata tolta dal potere, dalle mani di un miserabile difensore del denaro e del lusso dei ricchi. Il potere sfrutta, detiene, costruisce palazzi di opulenza e repressione. Il potere fa ballare con il ritmo del denaro coloro che sono anche disposti a rischiare la vita in difesa di questo meccanismo di morte, attaccando tutti coloro che cercano di rompere la norma imposta. In questo attacco ha approfittato della legittimità di uccidere il nostro compagno Angry. Le banche sono il simbolo per eccellenza della struttura capitalistica, del potere economico e l'accumulo di ricchezza. Così, quando un anarchico anti-autoritario espropria una banca, è consapevole dell'attacco e della strapiena legalità generata. L'espropriazione è quindi un attacco alla proprietà e ai valori dell'ordine capitalistico, anche se ignoriamo a dove vengono destinate le risorse. Un paio d'anni fa, precisamente il 10 giugno 2005, un gruppo di espropriatori appartenenti al MIR decise di strappare le ricchezze ad un furgone portavalori che portava denaro all'INP, a Macali. Durante l'assalto, un miserabile in divisa blu resistette riempendo di proiettili a Alfredo Ermosiglia Candia e ferendo gravemente un altro espropriatore. La miserabile vita di sorvegliare le ricchezze fu rapidamente spezzata nello scontro e nella sparatoria e nel ripararsi un parcheggiatore con problemi mentali, cercando di fermare gli aggressori imitando gli eroi della televisione, rimase ucciso nel mezzo della sparatoria. Poche ore dopo, il corpo di Leonardo Carlos Aedo Videla viene lasciato in una parrocchia. L'espropriatore non sopravvisse perché aveva perso molto sangue ed era stato ferito a morte. Alfredo e Carlos, appartenenti a MIR e partecipi all'espropriazione della banca, vennero uccisi da proiettili dei vigilantes. Tendenze e percorsi di lotta diversi, ma lo stesso bisogno di attaccare l'accumulazione capitalista e la stessa risposta da parte di quella razza di esseri umani che hanno deciso di dare la loro vita per uccidere e morire per difendere i privilegi del capo. La lotta anti-autoritaria mira alla distruzione del dominio, si oppone all'autorità, per questo l'atto di rifiuto della legalità dovrebbe essere difeso e deve solidarizzare con l'azione, come noi lo consideriamo un mezzo di lotta, uno strumento, un'ulteriore possibile tattica. Questo non vuol dire che gli anarchici anti-autoritari dovrebbero fare lo stesso o percorrere la stessa strada come una mandria ben guidata. Ciascuno dà il suo contributo in base alla sua analisi e alle proiezioni, mantenendo la coerenza tra l'atto e la parola, indicando la liberazione totale. Si suppone che la creazione di un mondo senza autorità e la lotta contro la dominazione multiforme è composto di da vari percorsi che avanzano insieme. È essenziale per non isolare o rendere invisibili scenari di conflitto, comprendendo il terreno di lotta da un'intera prospettiva, senza nessun feticcio o mancanza di solidarietà. E non c'è più mancanza di solidarietà del silenzio, dove solo riecheggiano le risate del potere. Salutiamo la tua vita, compagno Angry, salutiamo il coraggio dei passi che hai fatto, salutiamo la decisione di vivere lottando. Superiamo il momento in cui la morte ti ha detto che ti amava, perché abbiamo capito che la vita di un guerriero si va difendendo con i passi e le decisioni e azioni che osa incarnare, in un'incessante ricerca della coerenza nella lotta. La tua vita non si riassume con il momento della tua morte, anche se si duplica, è il momento e l'azione che si scatenano e fanno parte delle tensioni che ti hanno reso chi eri, un compagno anarchico. Mai in ginocchio, la guerra non ci ha vinto, con l'orgoglio nero di non guardare dal basso nessuno. Armati alla memoria dei compagni Claudia Lopez, Johnny Caricheo, Maurizio Morales e Sebastiano Verlucci, sono presenti in ogni lotta. E poi sotto l'articolo che trovate sul blog di Radiazione, sia sopra che sotto ci sono le foto di questo miserabile che ha tolto la vita al compagno Sebastian. Ora ci ascoltiamo un brano che non a caso è un brano della band di Sebastian, Palabras in Conflitto, feat. Gruppo Informale. Il brano si chiama Rap Insurrecto. Bajo mi pie, esquizofrenia mental, sabemos bien lo que es. La estructura quiere en vez de caer. El asfalto si tengo mi sucia piel. El odio alimentando mi depresión infiel. Me recuerda que no hay ayer. El futuro a la puta mierda, no sé lo que es. La revuelta germina, la insurrección nunca termina. No hay salida, destrucción masiva, adivina. Terroristas aún estamos a la vuelta de la esquina. Sigilosos vamos, solo la luna nos ilumina. El camino no se termina. Tate vivo, mire y no delira. Puñal en mano, el hipócrita cura, aniquila. En cada cotidiana acción, destruyendo toda la jerarquía. Putas ideologías que funcionan como policía. Plataforma no le doy mi tiempo. Sigan en su puesto, con su puesto, con su aliento a muerte. Juntando gente para estúpidos acuerdos. Compañero tuyo, compañeros son mis hermanos. Cada momento de los que hubo en la calle atacamos. Puede pasar lo peor, ya nada me importa. Destruyendo plataformas que te ciegan y te ahorcan. Diálogo no existe en mi mente, demente. Mientras exista autoridad, la destrucción será inminente. No te dices el futuro, ataque en el presente. Las fórmulas putrefactas que las quemo en tu cara y te disparo en la frente. Cara yo no tengo, me la cubro una bolera. Que como pólvora me inspira al inventar nuestra hoguera. Me duele recordarte tu sonrisa. Se dibujan los corazones insurrectos, esperando que tu alma abrace los estruendos. Construidas por el enemigo para encerrar ideas, encerrando compañeros para callar gritos de guerra. Es el centro de tortura y aniquilamiento, donde el ser humano se vuelve más violento. Es el reflejo de la sociedad represiva y carcelaria, sostenida y basada en lógicas autoritarias. Custodiados, reprimidos y vigilados, miles de presas y presos son exterminados ante esta máquina esquizofrénica y despiadada. Compañero Axel Osorio dando la pelea. corazón está presente e il dramma ha inizio. Macari rivide Gabriela Gino Vergara solo un giorno più tardi, quando Kocka Kolos apparve di fronte alla flotta. Non era una città e nemmeno un villaggio, bensì una serie di agglomerati di capanne con qualche edificio in pietra, sparse su una superficie vasta, inframmezzata a tratti boscosi. Il golfo su cui sorgeva aveva acque sporche e oleose, dovute a un fiume che si gettava in mare dopo aver attinto a stagni e paludi. I colori erano lividi, come se la stessa vegetazione soffrisse dell'ambiente nocivo. Unica difesa dell'abitato nel suo mare spento, il solito polverin, un piccolo fortilizio in pietra con una guardiola e un paio di cannoni. Magari passava davanti al quadrato ufficiali quando si sentì afferrati per un braccio. Gabriela pose l'indice sulle labbra. «Seguimi, Hubert», mormorò. «Devo dirti delle cose importanti». Macari si lasciò trascinare passivo dentro il piccolo corridoio del castello di poppa, illuminato da una sola torcia. Appena furono nella penombra, Gabriela lo baciò. Lui era riluttante, ma l'invito delle labbra della dama era irresistibile. Quando i due si staccarono, Gabriella gli tenne le mani sulle spalle. «Hubert, sai che Claire sta per morire. Ex Kamelling sta facendo tutto il possibile, ma riesce solo a prolungare la sua agonia. La disgraziata ha le ore contate». «Lo immaginavo», rispose Macari, che pensava ad altro. Gli occhi della donna lo ipnotizzavano. Il suo corpo rievocava l'amplesso più eccitante della vita. Già quando l'abbiamo liberata sembrava moribonda. Penso che anche suo fratello sappia che ne ha per poco. «E questo non ti preoccupa?» «Perché dovrebbe?» rispose Macari sconcertato. «Mi dispiace, certo, ma io non ci posso far nulla». Gabriela si imbronciò e lo respinse. «Sei tanto egoista da non capire. Devo dire che me lo aspettavo». «Ma capire cosa?» «Ciò che sarebbe ovvio per chiunque. Morta Claire, io non sarò di alcuna utilità per De Grammont. Tornerò a essere la cosa senza valore di cui sei impadronito. Lo hai udito tu stesso definirmi così. E questo vuol dire che è pronto a vendermi come schiava o a tenermi come sua concubina, a trattarmi come un ostaggio qualsiasi». Un po' smarrito, Macari scosse il capo. «Non credo. De Grammont è stato rude con le donne in passato. Adesso cerca solo la loro compagnia e nel vostro caso, nel tuo caso, si sta mostrando molto generosa. Ammira la tua bellezza. Escludo che voglia farti del male. Lui forse no, però quel mezzo animale di Fanorno continua a desiderarmi. Ogni sua occhiata è insolente, lubrica. Pensi forse che l'ammiraglio morta Claire mi sotterrebbe le voglie del suo luogotenente? Mi ha già lasciato una volta la violenza di quel bruto». Magari non sapeva bene cosa rispondere. Cercò di capire meglio. «Come hai avuto modo di vedere Fanorn in questi ultimi giorni? Siamo stati per mare, lui sulla sua nave e tu su questa». Gabriela batté le ciglia e tornò ad afferrare le spalle di Macari, accostando viso e corpo. «Dovevi vedere come mi guardava quando abbiamo lasciato la isla di Sacrificios», mi ha messo i brividi. «Ero presente, ma non ho notato nulla». «Come sei ingenuo, Hubert», e Gabriela sospirò. «Certe cose che sfuggono agli uomini non sfuggono alle donne. Fanorn mi vuole come schiava, ne sono certa, per insozzarmi un'altra volta e un'altra ancora, e infine per uccidermi o rivendermi a uno dei suoi marinai. Ne sono sicura come del fatto che Dio esiste, lui però è troppo lontano per proteggermi». Macari aveva quasi dimenticato dove si trovava e le proprie mansioni sul ponte. Era incantato dalle labbra così vicine della dama, dal suo nasino all'insù, dalla pelle liscia, dal taglio regolare delle sopracciglia. E questa volta fu lui a prendere l'iniziativa di baciarle e di carezzarle il seno sinistro, tondo e morbido. Lei non solo lo lasciò fare, ma partecipò con ardore. Quando le loro lingue si staccarono, gli sussurrò all'orecchio. «E allora cosa intendi fare, Hubert?» «Che senso?» rispose Macarini, ebriato e riluttante a tornare alla realtà. Le sue dita indugiavano sul capezzolo eretto che avvertiva sotto la seta della camicia. Gabriele indossava un corpetto troppo basso che le avvolgeva solo lo sterno e, invece di schiacciarle il petto, glielo metteva in evidenza. Tipico delle taverne, dei postriboli, della tortuga di Port Royale e dei Petit Goave, ma non della nobiltà coloniale. Ma lui non mi fece caso. Su via, non fare lo stupido, ti sto chiedendo cosa pensi di fare per proteggermi. Questa volta magari di malavoglia fu costretto a scostarsi un poco, pur seguitando a tenere la mano sul seno di lei. Hai appena detto che Dio non può esserti d'aiuto, io posso fare ancora meno. Cercare di parlare di Grammont magari, questo sì, ma in nessun caso sfidare Fanorno. Non è il luogotenente del cavaliere, in questo ti sbagli, malgrado i dissapori recenti, il vero braccio destro dell'ammiraglio è da sempre tuo consiglio. E io non ho la veste adatta per oppormi al volere di nessuno dei due o dei tre. Gabriele parve riflettere. Lorenzio ha detto, e sembrava adesso del tutto indifferente al fatto che lui la palpasse. Magari allora ritirò la mano. Sì, Laurent de Graaf è il vero numero due della flotta. Lui e Fanon non vanno molto d'accordo, mi pare. È una ruggine di vecchia data che ogni tanto si attuena, ogni tanto si ravviva. Se non fosse per il rispetto che nutrono verso De Grammont, si sarebbero già sbudellati da un pezzo. E in quel momento Re Texar si affacciò sulla porta del quadrato, si chinò per entrare e appariva molto irritato. Ah, ecco dove eravate finito. Stiamo per sbarcare e voi vi acquattate in un buco con una prigioniera. Devo ricordarvi che siete secondo ufficiale. Macari ringraziò il cielo di non essere più stretto a Gabriele e disse: scusatemi, sono qua da pochi minuti, vengo subito. Allora andiamo. Il primo ufficiale fece per uscire, ma la dama lo bloccò sulla soglia con la sua voce soave, dolce e gentile. Permettete, signore Texar, che io dica ancora due parole al signor Macari. Una questione di un minuto. Stavamo parlando delle condizioni di Claire de Grammont. Un messaggio riservato sul suo stato da portare al fratello. Re Texar tentennò e poi disse: e va bene, che sia un minuto soltanto. Secondo ufficiale, vi aspetto sulla tolda. Appena fu scomparso, Gabriele tornò a stringersi a Macari per parlargli all'orecchio e lo fece con concitazione. Hubert, sai che Fanon dice di Lorenzio cose terribili? Che è un vigliacco, un ladro. Vuole ucciderlo alla prima occasione. Ma chi te l'ha detto? Qualcuno che ha ascoltato i suoi discorsi. Io penso che Lorenzio debba essere avvertito. Rischia l'onore e la vita allo stesso tempo. Troppi indizi mi fanno presumere che Fanferton Fanorn colpirò per primo a tradimento. Magari mentre De Graaf dorme, io sogno la scena tragica tutte le notti da quasi due settimane in qua. Magari era colpito, ma la domanda che gli salì alle labbra fu la stessa di prima. E io che cosa sento? Che cosa dovrei fare? Gabriele gli si strinse un poco. Tu devi avvertire Lorenzio del pericolo che corre. È tuo dovere, mi sembra. Hai detto tu stesso che è secondo in grado dopo l'ammiraglio. Afferrò il mento di Magari e sembrò sul punto di baciarlo un'altra volta, poi si tirò indietro. Vai, vai, vai sul ponte. Ti stanno aspettando rischi, punizioni. Magari si avviò all'uscita del quadrato, domandò: mi ami? E lei rispose: non lo so. E tu? Non lo so nemmeno io. Gabriele accolse la frase con un sorriso seducente. Vai, vai adesso. Avremo modo di riparlarne. E allora Macari lasciò la penombra e uscì nel pieno sole che arroventava il brigantino diretto a vele spiegate verso la baia di Kotskakolkos. questi erano Informatic con il brano Over. Ora si ripassa alla controinformazione. Si va in Brasile, Porto Alegre. La solidarietà è una forza viva. Attacco al Banco Santander. Traduciamo, come tutti i testi che arrivano dallo spagnolo vengono tradotti da Radiazione, anche qualcuno inglese che abbiamo letto, come quello dell'attacco alle macchine della polizia. Allora, leggiamo direttamente il testo della rivendicazione. Fuoco alla bomba. Nel calar di un sole caldo a 34 gradi e nascere della luna piena nel cielo sopra di noi, abbiamo visitato lo scorso lunedì 16 dicembre sull'avvenita Osvaldo Aranha a Porto Alegre in Brasile il Banco Santander, davanti a una stazione di polizia. All'ingresso dell'istituto bancario gli lasciamo davanti a uno sportello bancomat un regalo di Natale con il chiaro intento di distruggere il posto. Dopo il tempo e il fuoco hanno fatto la loro parte. Siamo andati a rubare il loro sudici denaro, andammo a distruggere. Abbiamo soddisfatto le nostre intenzioni, abbiamo attaccato, distrutto e lasciato il luogo senza problemi. E con questa azione dimostriamo che la solidarietà non è uno slogan vuoto, che non vive in tutta la sua grandezza di sole parole. Questo piccolo gesto mostra che la crescita della sorveglianza in città non può essere un freno al nostro desiderio di sfidare costantemente il potere. Si può sempre trovare un modo per sfuggire alla grande bestia, iniziando a smontare la nostra paura. Che sia un impulso per tutti i cuori ribelli passare alla lotta contro i progetti di accelerazione del capitalismo e anche contro la Coppa del Mondo che vengono ad investire nell'alta velocità. È chiaro che la lotta non si limita solo a questo evento sportivo che sta violentando molte persone. Inoltre segnaliamo con il calore di questo fuoco la nostra solidarietà a Rafael Vieira, Jair Soares, che resiste contro Rafael Vieira e Jair Soares, che resistono contro l'azienda idroelettrica di Bellomonte, con tutti coloro che soffrono processi e persecuzioni risultati delle proteste di questo inverno, e da lontano a tutti quelli in lotta contro il potere in tutti gli angoli del mondo e che subiscono il peso del sistema carcerario in Argentina, Grecia, Indonesia, Cile, Italia, Stati Uniti, Bulgaria, Messico, Germania e Spagna. Con questo piccolo attacco agli interessi spagnoli diamo forza solidale a Monica Caballero e Francisco Solar, detenuti nelle morbose carceri dello Stato spagnolo, isolati nel regime di alta sicurezza del FIES. Contro la repressione, solidarietà attiva con tutti i metodi possibili. Forza e solidarietà a Monica Francisco, libertà per Baiano e Rafael Vieira, detenuti a Rio de Janeiro. E poi alla fine c'è una nota: non abbiamo trovato nessun articolo dei media riguardo all'attacco di ieri sera, però la dissezione è stata efficace, gli sportelli sono stati distrutti e la banca è chiusa ancora oggi. Questo era di qualche giorno, cioè è stato pubblicato ieri, però era del giorno prima. Comunque c'è la foto dell'attacco al Banco Santander a Porto Alegre, quindi anche se la stampa non ne parla, ovviamente non ne parla perché in prossimità ci sono i mondiali di calcio in Brasile tra 6 mesi, e quindi evita di dare spazio a certe notizie per fare cacciare fuori solo la facciata carina. Intanto crollano gli stati e muoiono anche gli operai che stanno costruendo tali stati per la Coppa del Mondo. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Society Burning con il brano Human Waste, e poi dopo si torna qui e si torna con la lettura di Veracruz di Valerio Evangelisti. fire! Terra desolata. Macari trovò sulla tolda frotte di marinai che correvano su e giù, come accadeva sempre nell'imminenza di uno sbarco. Retexar stava dicendo qualcosa a Truflu ed era distratto, ma lui i comandi da impartire li conosceva. Ordinò di serrare le vele alte e di caricare da basso i fiocchi. Subito dopo, mentre l'ancora calava, fece imbrogliare le gabbie con i caricamenti. Salì poi sul parrocchetto con il maestro d'ascia a terzarolare. Dal ponte il primo ufficiale gli lanciò uno sguardo di approvazione. I Leardi e gli altri vascelli si misero alla fonda in un tratto di mare poco distinguibile da una palude, grigio quanto il cielo serale, solcato da nubi. Nessuna nave esponeva la Jolie Rouge. Forse era il motivo per cui dal polverine non provenivano reazioni al momento. L'intero piccolo abitato sembrava deserto, non un passante, non una traccia di fumo, nessun segno di vita, se non fosse stato per poche barche ormeggiate sulla rada battuta da schiume sporche. Quatzcalos sarebbe sembrata una città fantasma. Mentre Macari scendeva dal parrocchetto, provò uno strano disagio. Si accorse di non essere il solo. I movimenti dell'equipaggio erano svogliati, lontani dal dinamismo abituale, e ci volle un tempo doppio del solito a metterle in mare le scialuppe e ancora più tempo per riempirle. E magari sulla Iole, assieme a Retexar, notò che anche il suo superiore era turbato. «Qualcosa non va», mormorò il primo ufficiale. «Troppo silenzio a terra. Persino gli uccelli tacciono, almeno ci sparassero una cannonata, tanta monotonia, io non la reggo». Macari non commentò, cercò con lo sguardo la barcaccia che portava a riva dei Gran Mon sua sorella, ex Kemening e Gabriela, e la vide persa tra le molte scialuppe che si erano staccate dai vascelli all'ancora. Aveva innalzato la vela latina, forse per vincere meglio la resistenza del mare oleoso e quasi opaco. Stava approdando accanto ad un agglomerato di mangrovie, da cui fuggivano scimmie multicolori. Macari aiutò a trarre la propria scialuppa in secco, seguì gli altri verso l'abitato e si trovò casualmente affiancato da Petru Vinciguerra. Sulle prime non si parlarono, ma poi il corso gli disse con accento lamentoso: «A Veracruz mi hai picchiato senza ragione, adesso ammetterai che prevedevo ciò che è accaduto per davvero». «E sarebbe?» chiese Macari brusco. La stessa vicinanza del corso gli faceva prudere le mani. Claire de Gramont, più morta che viva, detta scelte del fratello e di conseguenza di tutti noi, la sgualdrina Gabriella Cino Vergara, un'influenza che apprima a una prigioniera non dovrebbe essere consentita, chissà quale catastrofe ci porterà. Sentir definire Gabriella sgualdrina fece perdere a Macari il lume della ragione. Sfilò dal fodero la misericordia, pronto a piantare nel petto il corso. Vinciguerra dovette la vita ad un evento inatteso. Dal polverin i cannoni spararono. Prima un colpo isolato, roboante, poi molti altri. Le palle piovvero a casaccio, molte finirono in mare, un paio danneggiarono le case, un'altra tranciò di netto il tronco di una palma che cadde scricchiolando sugli invasori. Un bucaniere rimase ferito. Si udì la loquela inconfondibile di Lorenzillo. «Porco diavolo! Sono tanto scemi da bombardarci! Con me, fratelli della costa, si va a bruciare da cima a fondo il fortino degli spagnoli!» In perfetto disordine, gruppi di avventurieri seguirono De Graaf, mentre altri, smarriti, attendevano gli ordini dei rispettivi capitani. Macari pensò suo dovere andare. Spinse da parte Vinciguerra e, la misericordia in pugno, corse dietro a chi si dirigeva al polverine con armi di fortuna. Tra loro, tutta la francesa, da Marcel Ruff a François Le Bon, da Henri Duval e inoltre Big Willy, Le Skelette e lo stesso Pierre Bot, armato di moschetto. Sembrava un'impresa facile e i filibustieri erano al colmo dell'euforia, come se avessero bevuto molte razioni di rum e non si attendevano ciò che accadde. Dalle capanne silenziose di Coatzacoalcos sbucarono uomini dalla pelle nera e indigeni seminudi, spararono con pistole antiquate, lanciarono frecce. Numerosi avventurieri caddero al suolo, morti o feriti, e intanto la modesta artiglieria del Polverin aveva corretto il tiro e batteva sulla strada da cui avanzavano i pirati. Il cavallo di Lorenzio si inalberò, il capitano, a furia di strattoni di regno, lo ricondusse alla disciplina e gridò ai suoi uomini che si sbandavano da ogni lato: «Tenetevi uniti, per il culo di Satana! Sono 4 negri nelle case e 4 idioti nel fortino! Dio cane, abbiamo preso Veracruz, non ricordate? Sarebbe assurdo che adesso una banda di schiavi e di bifolchi ci sbarrasse la strada!» Macari concordava, ma non sapeva bene che fare. Intercettò Levert che arretrava, l'inutile sciabola in pugno. «Francis, non c'è che un sistema, i 4 punti delle baracche sono di legno e paglia, picchiamo il fuoco!» «Hubert, aspettiamo che ce lo comandino.» «Non serve, non serve! Facciamo scappare i topi dalle tane, De Grammon sarebbe d'accordo, Fanorn, anche Lorenzio, a dito d'impulso, vieni, appicchiamo i falò!» E corsero alla capanna più vicina e, scaricate le 2 pistole, fecero saltare il cane sulla pietra focaia. Ne scaturì una pioggia di scintille. Il tetto, sporgente dell'abitazione di paglia, si incendiò e il vento, fastidioso e incessante, trasportò fili incandescenti da un tugurio all'altro, sprigionando nubi di fumo nero. Nel giro di qualche minuto un terzo di Coatzacoalcos bruciava. Resistevano la chiesa, le rare villette in pietra e i bassi edifici governativi. Lorenzio prese a tossire, cercando di restare in sella al suo cavallo che si impennava. «Chi è il figlio di un demonio che ha avuto questa idea stupidissima?» gridò. In effetti gli avventurieri, quasi soffocati, erano costretti ad arretrare. Peggio ancora, la fumana impediva di scorgere il Polverin e se ne intuiva la posizione solo dalle frequenti cannonate che squarciavano la caligine. Malgrado ciò, il fuoco si rivelò efficace. I tiratori furono costretti a lasciare le capanne entro cui si nascondevano e a riversarsi in strada. Tossivano a loro volta. Erano solo schiavi, africani o indigeni, più qualche cinese che aveva attraversato l'istimo di Tehuantepec al termine di chissà quale odissea. Allo scoperto quegli uomini non apparivano per nulla temibili, scheletrici, seminudi, rosi dalle malattie, stentavano a reggere le loro armi. Era palese che, se avevano resistito, lo avevano fatto per conto dei padroni, ma non c'era nessun bianco tra loro. Magari, che si sentiva in colpa, disse alle Verte: «Andiamo!» E corsero davanti a tutti, indifferenti al fumo, ai polmoni che dolevano e agli occhi infiammati. Avevano impugnato le sciabole, abbatterono con pochi fendenti 3 larve umane che tentavano di ricaricare i moschetti. Una quarta la ricacciarono entro l'incendio e la sua casupola. Gli avventurieri si rinfrancarono. Entrarono nel fumo abbattendo ogni sagoma che si parava loro dinanzi. Beguilli faceva meraviglie con la sua scia. Sfondava crani, recideva arti, quasi decapitò uno schiavo che gli si era aggrappato alle ginocchia. Gli altri filibustieri non erano da meno. Insensibili alle cannonate, usavano sciabole, spade e daghe contro nemici fragili quanto statuette di gesso. Rari erano i colpi di pistola e presto il lezzo del sangue sovrastò ogni altro. Anche Lorenzio riacquistò coraggio. «Uccidi! Uccidi la filibusta!» urlò con la cazzoletta insguainata. Subito dopo aggiunse: «E tu dove corri, vigliacco?» Magari colse la scena con la coda dell'occhio. De Graff si rivolgeva al suo secondo ufficiale, Charles Rouenet. Quest'ultimo si allontanava dal combattimento, sfregandosi le palpebre. «Il fumo mi acceca, capitano, non vedo nulla!» «Vale anche per me, ma non me ne curo, gente del tuo grado, non devi dare l'esempio! Impugna la sciabola e accoppami qualche negro!» «Non ce la faccio, capitano, non ce la faccio, allora sparisci, noi faremo i conti più tardi!» Macari pensò in cuor suo che Fanorn avrebbe già ucciso il suo secondo, Aveva però altro a cui badare, e gli schiavi erano un cumulo di cadaveri sanguinanti e pochissimi resistevano ancora. Oltre l'incendio, dilagato di casa in casa, si profilava la sagoma massiccia del polverino, in merito di una pioggia leggera che non spegneva il fuoco ma disperdeva la bruma. Stavano intanto sopraggiungendo gli uomini di Andrizon, di Chasmaré e di Lesage. Circondarono la piccola fortezza quadrangolare, le mura erano lisce e inaccessibili, l'ingresso era un corridoio stretto e tortuoso terminante in un ponte levatoio sollevato. Impossibile capire quanti spagnoli dietro gli spalti scaricassero a ritmi regolari i quattro cannoni. I capitani si riunirono a consulto a Tono Lorenzio. «Che si fa?» chiese Lesage. «Un assalto con i grappini ci costerebbe troppe perdite.» Andrizon si alzò le spalle. «Basta attendere che finiscano i colpi, sono già allo stremo.» «Oppure, si potrebbe passare il fossato che è secco», disse Grognier, «e cercare di sfondare il portone, non mi sembra tanto robusto da...» La discussione fu risolta da una salva di cannonate proveniente dal mare. Tutta un'ala del polverin si sgretolò, cadde una torretta e il pezzo d'artiglieria che le era più vicino, il frastuono, fu assordante. Il fossato, libero dall'acqua, si colmò di detriti. «Ehi, Leardi!» esclamò Giulio Lorenzio indicando la baia. «L'ammiraglio si dice capitan, ma sa anche essere marinero quando occorre.» Magari guardò nella direzione che De Graff indicava e vide il brigantino di De Grammont che aveva levato l'ancora e bordeggiava di fronte alla costa. Le sue fiancate si incendiarono di nuovo facendo oscillare tutto lo scafo e il rombo percosse l'aria. Un intero angolo di bastione fu polverizzato. Lorenzio levò la spada esultante. «Il barco è sufficiente! Avanti, avanti, avanti! Ammazza, filibusto, ammazza!» E i filibustieri dilagarono nel fossato e calpestarono le macerie che lo colmavano, urlavano a perdifiato, lanciavano minacce e bestemmie. Varcate le muraglie infrante, si trovarono in un cortiletto quadrilatero. Un manicolo di mischitos, gli indigeni, fu il primo a imboccare il piano inclinato che conduceva agli spalti. La loro apparizione si udirono in altro brevi urla, tacitate dalle lance. Lorenzio salì insieme agli indigeni con un manipolo al seguito, ne faceva parte Macari. Questi, raggiunto il piano superiore, condivise lo stupore del capitano. I difensori dietro i merli erano 9 in tutto, 2 morti, 6 agonizzanti e 1 ferito ad una gamba. Erano riusciti ad azionare 4 cannoni come un'intera squadra di artiglieri. Morti e moribondi pendevano sull'orlo del camminamento prossimo a crollare, e la pioggerella si mescolava al sangue che versavano a fiotti. Lo zoppo si era rannicchiato nell'unica guardiola rimasta intatto. Era febbricitante. Il pantalone tagliato rivelava una tibia scoperta fra carni devastate già marcescenti. Lorenzio lo indicò. «Portatelo fuori con cautela, lo dobbiamo interrogare.» Al passaggio del ferito, sorretto da 4 avventurieri, levò la spada e si tolse il cappello. «Onore ai valorosi!» Gli altri capitani lo imitarono. Il ferito li guardò con occhi sbarrati, colmi di meraviglia. Perso nel dolore, forse, non capì l'omaggio. «Why does this happen to me? I think it's time for a change. I'm show! Allora, dopo questo brano passiamo di nuovo alla controinformazione e poi dopo l'ultimo capitolo di Vera Cruz di Valerio Evangelisti. Allora, per la controinformazione si va a Santiago del Cile, dove c'è stato un compagno arrestato per tentata omicidio a un carabineros. Leggiamo il testo che ci fanno avere i compagni cileni. Alle 23.40 di venerdì 20 dicembre un gruppo di circa 24 incappucciati ha fatto un blocco stradale presso l'Università di Santiago del Cile, USAC, in particolare nella strada tra Matucana e Romero. Una volta che la polizia ha cominciato a dispiegarsi, un gruppo si è mobilitato fino all'ingresso principale dell'università, all'angolo di Alameda Matucana, dove oltre a bloccare la strada principale sono state gettate un certo numero di bombe Molotov contro l'albero che ogni anno viene messo nella stazione di Paseo Mal. L'azione è stata rivendicata come un attacco al consumo di massa e che prende parte alla chiamata feste di fine anno. Inoltre sono stati ricordati prigionieri politici e compagni caduti in lotta, tra cui Sebastian. Durante questa azione una squadra di forze speciali di Carabineros è partita contro gli incappucciati, arrivando ad arrestare 9 di essi. Il giorno dopo, intorno alle 14, con una sala piena di polizia e 6 dei quali in uniforme e stampa, è stato formalizzato l'arresto di 9 compagni, la maggior parte di 19 anni, accusati per gravi disordini. Sono stati difesi dai membri della Difensoria Popolare Washington Lizana e Maria Rivera. Tutti i compagni sono stati rilasciati poi con la firma ogni 15 giorni, tranne Felipe Adarme Troncoso, di 19 anni, studente di chimica presso la USAC. Felipe è stato accusato di disordini gravi e violando la legge per armi ed esplosivi, con l'accusa di trasportare 12 bombe Molotov e un coltello e tentato omicidio di un carabineros. Questo perché, secondo le dichiarazioni degli sbirri, era Filippo che, quando venne arrestato, ha accoltellato il miserabile delle forze speciale che cercava di mantenerlo ed è stato leggermente ferito. A causa di questo Filippo è in detenzione preventiva, solidarietà con gli arrestati della lotta in strada, libertà per i detenuti dell'11 settembre a Villa Francia, detenuti liberi. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la controinformazione di oggi. Ora ci ascoltiamo un brano, è Pig con il brano Content, e poi dopo si torna qui con l'ultimo capitolo di Vera Cruz. We'll be right back. Dos, capitano. Macari seguì Lorenzio all'esterno del polverin sotto la pioggia incessante, anche se leggera. Bagnato da capo a piedi, il capitano si rivolse a lui quasi con affetto. «Devo dirvi, secondo ufficiale, che avverto la vostra mancanza a bordo. In ogni occasione però vi rivelate un valoroso, obbediente, disciplinato e meno tonto della maggior parte di questi mascalzoni, specie rara la vostra». Un soldato dalla testa ai piedi, è insolito trovare gente così alla tortuga. Magari fu lì per confessare che, senza aver ricevuto ordini in merito, era stato lui a dare fuoco al villaggio. Quella trasgressione in effetti gli pesava sulla coscienza come le tante degli ultimi tempi. Temette però di compromettere Levert, che a qualche passo di distanza lo guardava con apprensione, e quindi si limitò a dire: «Vi ringrazio, capitano». «Oh, non c'è di che», rispose Lorenzio e si tolse il cappello e cercò incongruamente di asciugarne le piume strizzandole tra le dita. «Dannata acqua! La mia sola speranza è che in Fradici Fanorn ha il petto debole, la contabile. Se Dio fosse veramente lui a governare il mondo e non il diavolo, potrebbe schiattare di polmonite e anche sua madre sarebbe contenta». Le vie di Coatzalcoatlus, due strade in croce, erano adesso libere da fumo. La pioggia aveva spento gli incendi, i cadaveri degli schiavi si accumulavano in pose spesso grottesche. Rivoli di sangue ancora fresco si mescolavano alla terra battuta e scorrevano tra i sassi. Gruppi di avventurieri frugavano tra le ceneri delle capanne alla ricerca di qualcosa di utile, ma senza risultato. Arrivò l'ammiraglio di Grammont a cavallo. Lo seguiva un manipolo di comandanti e di graduati, tra cui Fanorn, e il cavaliere salutò Lorenzio. «Ah, vedo che avete preso il fortino, molto, bien. Dovremo alloggiare tutti lì, il territorio è fradicio, la puzza toglie il fiato. Veracruz era sì una fogna, ma questo abitato era peggio!» «Non sono d'accordo, ammiraglio!» disse Lorenzio tossendo per ancora il fumo che... «Vi ringrazio, l'intervento dell'artiglieria delle arti era stato indispensabile per la conquista, peccato che qui però non ci sia nulla da rubare». De Grammont indicò lo spagnolo ferito, portato via su un telo che serviva da barella. «Di bianchi nel villaggio dovevano essercene, altrimenti quel tizio non avrebbe sparato un colpo. Ma sto appunto cercando un luogo riparato dove torchiare ben bene. Dovrebbe conoscere quello lì, nascondigli dei ricchi se ce ne sono». Fanorn, appiedato, si fece avanti. La pioggia gli aveva reso flosce le ali del cappello. «Date a me il prigioniero. Io so cosa fare di gente come lui». «No, non le uccidereste prima che abbia detto una parola», rispose De Grammont. «Conosco il vostro stile, capitano De Graff. Occupatevi voi della faccenda, ma non esagerate. È un uomo di coraggio che ha tenuto testa per ore a forze 100 volte superiori e quindi gli si deve rispetto. Agli ordini, signore. Posso tenere per poco con me il vostro secondo ufficiale Hubert Macari, è un soldato di valore, porco diavolo. Vi assicuro che ve lo restituirò». Gli occhi tristi e penetranti di De Grammont si posarono su Macari. Sembrò valutarlo e porre a nudo la sua anima, e infine disse: «Certamente, capitano De Graff, è un bravo ragazzo, a volte sbaglia, ma merita fiducia». Le due colonne si scissero, il cavaliere e il suo seguito diretti verso il polverino, Lorenzio e i suoi verso la spiaggia. Incrociarono una portantina che conduceva in salvo dentro il forte Claire e Gabella Gino Vergara. Magari guardò la dama, visibile tra i tendaggi, ma lei aveva gli occhi volti altrove. Ciò non impedì che l'ufficiale provasse una profonda emozione, così forte da indurlo a ricordare le istruzioni ricevute da lei e da spingerlo ad accantonare ogni prudenza. «L'ammiraglio De Grammont sembra più dalla vostra parte che da quella di Fanorn», disse Lorenzio. «Vorrei vedere il contrario. Fanferton è della razza dei topi e degli scorpioni, morde solo quando è certo dell'impunità e il nemico è a piedi nudi. Non bisognava accogliere un comune negrito fra i fratelli della costa. Alla prima occasione, da bravo mercante, darà prova di vigliaccheria. È quello che dice lui di voi. Che cosa? Lorenzio si arrestò in mezzo alla fanghia della strada, tra il lezzo delle case bruciate e dei morti disseminati tra le rovine. Anche il corteo si fermò, inclusi i portantini che reggevano nella barella lo spagnolo prigioniero. Ditemi cosa avete sentito. Macari deglutì. Ripeté le affermazioni di Gabriella. Secondo Fanorno voi sareste un ladro e un codardo, tanto che medita di uccidervi nel sonno. Lo avete udito dire voi stesso questo, ne siete sicuro? Lorenzio aggrottò le sopracciglia bionde, contrastanti con la pelle ambrata, e Macari si era già pentito della sua uscita e tuttavia confermò meccanicamente: più che sicuro. Lorenzio si rivolse a Terris Zon, fermo a pochi passi. Il verme vuole tagliarmi la gola di soppiatto come nel suo stile, che ne pensate, Michel? L'altro allargò le braccia. È una questione d'onore. Andrebbe portato davanti all'ammiraglio o risolta tra gentiluomini. Lorenzio fece una smorfia. De Grammont è troppo compiacente con quell'animale. Cercherebbe una mediazione. Meglio un duello regolare. Mi fareste da testimone, Michel? Oh, certo che sì, Fanorn. Non l'ho mai digerito io. E tu, Grognier? L'interpellato assentì. Ci sto, ammesso che costui, dico, magari dica la verità. È l'unico uomo della flotta incapace di mentire, rispose Lorenzio. Andate, andate dunque da Fanorn e ditegli che lo sfido. La spada, la pistola, o come accidenti gli pari. Con un'arma o con un'altra gli bucherò la pancia, allo scoperto, non mentre dormo. Intanto la pioggia era cessata, ma nessuno vi faceva caso, perché il sole era nascosto da nuvole sottili che si muovevano velocemente. L'aria era riscaldata, ma restava malsana, asfissiante. Le zanzare volavano a nugoli, seguite da frotte di gigantesche farfalle nere, dalle orbite sghembe e grottesche. Le paludi intorno stavano vomitando tutta la loro fauna e i loro miasmi. Lorenzio guardò Atris Zon, che si allontanava per trasmettere a Fanorn un messaggio di sfida. Notò un edificio in pietra che, malgrado le bruciature ai lati, si reggeva intatto. Era l'ennesima stazione della defunta compagnia francese delle Indie Occidentali. Facciata e porticato anteriore parevano in buone condizioni. Sul giardino, poco curato, svettavano palme altissime. Una fontana dalla vasca circolare, di fronte all'ingresso, sputava grumi di acqua sporca. «Io dormo là stanotte», annunciò Lorenzio. «Mettete lo spagnolo nell'atrio, ma non venite tutti con me. Mi bastano Big Willy, Macari, Henri Duval e Levert. Gli altri possono sistemarsi a terra o tornare sulle loro navi». Forse, capitano, vi occorrerà un chirurgo. A offrire se stesso era Ravenaud de Dussan. Magari non l'aveva nemmeno notato. Sono alle prime armi, però con me la mia valigetta, debitamente registrata nel contratto di ingaggio. Lorenzio rimirò il francese come una bestia rara. Per quale demonio mi servirebbe un chirurgo? Io sto benone e i miei uomini anche. Per lui, indicò il ferito. Adesso sta male e tra breve starà peggio. Non ho la minima intenzione di torturarlo, Delusson sogghignò. Ah, ma io parlavo della sua gamba quasi incrancrenita. Potrebbe rendersi necessaria un'amputazione. Il prigioniero, attento alla conversazione, ebbe un moto di terrore. Lorenzio era perplesso, ma finì col dire: d'accordo, dottore, allora venite con noi. Entrarono nel porticato di cui erano crollati larghi tratti circondati il patio. Nel cortile non c'erano che erbacce e una vasca di acqua sporca. Il vento aveva strappato dalle stanze superiori, attraverso le finestre rotte, molte carte della compagnia, ora sparse un po' ovunque. La barella con il ferito fu posata sotto una volta. Lorenzio si curvò sull'uomo che strizzava gli occhi per il dolore. Sudava abbondantemente, non per il caldo umido subentro alla pioggia. Ripeto che sei un valoroso e che ti ammiro molto, gli disse Lorenzio. Come ti chiami? Ah, io mi chiamo Pepe Cansejo, agli ordini di re Carlo II di Castiglia e d'Aragon. Ah, un buon re a suo modo. Ora dimmi, amico Pepe, come mai, a parte voi militari, non si vedono spagnoli qui a Coatzacoalcos? Avevano saputo che stavamo arrivando, dove sono fuggiti? Canseco fece una smorfia. Mi capitan, vi ho già detto il mio nome, non chiedetemi altro, sono tenuto al silenzio, l'ho giurato e manterrò il mio impegno. Lorenzillo annuì. Proprio un valoroso. Esaminò tra i lembi strappati dei pantaloni la ferita e l'osso scoperto del prigioniero, palpò con disinvoltura le canne piegate e non badò allo striglio che lanciò Canseco. Ah, un bruttissimo taglio, non getta più sangue, e ciò non è mai un buon segno. Signor Ravenot, parlavate di amputazione, la credete indispensabile? Al momento non lo so, mio capitano, la cancrena è appena iniziata, potrebbe risolversi meglio o in peggio. Tagliato il marciume, la ferita potrebbe rimarginarsi, è vero, ma solo in parte. No, ribatté Lorenzillo con fare preoccupato, non vorrei che questo brav'uomo mi morisse tra le mani, per Dio. Tagliatela tutta la gamba. Tornò a infilare le dita nella piaga, strappando allo spagnolo un nuovo urlo lacerante. Avete con voi la sega adatta? No! Lussan sorrise. L'ho lasciata a bordo, ma posso andare a prenderla. Perderemo troppo tempo. Ci penserà il buon Big Willy con la sua scure. Willy, vieni qua, amico mio. Testone di un irlandese. Un colpo solo, se possibile. E attento a non asportargli anche le pudenda. Il colosso si avvicinò, l'arma impugnata a due mani. Canseco cominciò a torcersi sulla barella e a gridare. No. Ma è per il tuo bene, disse Lorenzillo mellifluo. E aggiunse: adesso forse vorrei dirmi cos'è accaduto agli altri spagnoli di questo villaggio e dove si nascondono. Canseco parlò in fretta. Se ne sono andati ai primi casi di peste, dopo lo sbarco della nave proveniente da Londra. Noi soldati ci siamo asserragliati nel forte, gli schiavi si sono armati perché nessuno si avvicinasse alle loro case. Lorenzillo impallidì. La peste, o cane d'un demonio! E si rivolse a Macari. Correte da De Grammont e ditegli che ce ne dobbiamo andare di qui subito, peste! E con questo ultimo capitolo finisce qui la diretta d'azione di oggi 23 dicembre 2013. Vi ricordo che le dirette d'azione andranno in onda regolarmente ogni venerdì e ogni lunedì, anche durante le feste di Natale, perché noi non festeggiamo alcun Natale. Anzi, noi ci auguriamo un buon Natale nero. E allora ricordiamo quindi il prossimo appuntamento è per venerdì prossimo con la diretta d'azione con controinformazione e musica. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@ristici.org per chiunque vuole mandare qualsiasi tipo di scritto, comunicato, fanzine, libri, tutto quello che può essere pubblicato sul blog di radiazione, oppure consigli per i libri da leggere, oppure riflessioni su quelli che si stanno leggendo. Per il blog radiazione.noblogs.org, dove già domani potete riascoltare sia la diretta di oggi che quella di venerdì. Oramai sta diventando un'abitudine di pubblicare lunedì le due dirette, quella del venerdì precedente e lunedì quella di oggi. Quindi questo lo potete fare attraverso la categoria Ascolta le dirette d'azione, dove, o altrimenti potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente. Ricordo che c'è un video, mi ero dimenticato di dirlo, c'è un video sul sito di Parabellum, lo ripeto, Parabellum, basta fare la ricerca su Google, vi esce il sito anarchico Parabellum, dove c'è un video sul progetto Phoenix, e qui c'è anche solidarietà verso Alfredo e Nicola, ci sono le voci di alcuni compagni detenuti, insomma un video da vedere, lo ricordo, Parabellum, quindi come da calibro 9. Il blog l'abbiamo detto, la radio invece è radiazione.listentumaradio.com, o altrimenti attraverso il banner che trovate sul blog di radiazione ci cliccate sopra il lunedì e venerdì dalle 17 alle 19 e ascoltate la diretta d'azione. Ora vi lascio con un brano dei Peter Splatter, Frozen. e l'appuntamento è a venerdì prossimo. informazione, letture, provocazioni, musica.